sempre, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Attenzione, attenzione, amico mio. Io fosse per me lo farei direttamente presidente della Repubblica questo signore, eh? Cioè io lo farei direttamente presidente della Repubblica, caro Parenzo, ma perché aspettare? Cioè perché aspettare? Invece di tenerci uno che ha tutta quella serie di privilegi che abbiamo elencato l'altro giorno, dal maggiordomo, eccetera, eccetera, facciamo un cittadino qualunque presidente della Repubblica. Tanto un valore simbolico, no? Sta lì, non è. Il signore che ha sparato. Il signore che ha sparato, sì, no, hai capito. Hai capito subito. No, ho capito, ho temuto. No, ma scusa, ma non è meglio il signor Sicignano? Signor Sicignano? So che di non napolitano, è cioè meglio Sicignano. No, ma so che non è neanche una provocazione di napolitano. No, io penso che vada fatto presidente della Repubblica senza alcun potere, perché il presidente della Repubblica, diciamo, non dovrebbe avere un potere formale, non questa roba di intrighi, questa roba di intrighi. La tua è chiaramente una provocazione, ma è una stronzata. No, non è affatto una stronzata, presidente della Repubblica subito l'uomo che ha sparato al ladro. E per quali meriti, visto che c'è ancora. Beh, adesso ti faccio ascoltare alcune cose, poi te li elenco uno per uno, te li elenco. È andato, diciamo, oltre il tuo amico della Ruspa. Chi è? Oltre. Ah, Salvini, chi è? Mio amico? No, io non ho amici. Non ho amici. Ricordati una cosa. No, ma ricordati una cosa, inutile che mi pigli per il culo su questo. Ricordati una cosa, io non ho amici. Ma questo lo sappiamo. Non ho amici. Cioè, no, ma tra la politica, non ho amici, non me ne frega niente di nessuno. Ma questo non è il punto. Tu li inviti a cena, io no. Ma può essere sicuramente. No, tu inviti a cena i politici, io no. Quelli che non disprezzo. Ma no, sì. Ma molti, inviti a cena molti politici. Ma non fanno un cenetto di strano. Invito molte persone che non disprezzo, però. Vabbè, ma è uguale. Ma no, io non inviterei mai uno che disprezzo. Ma figurati se non vai a cena con Salvini, dai, su. No, E allora, dai, su. Non può essere capitato dopo una trasmissione, sicuramente. Buon anno lo inviteresti a cena, dai, su. No, ma mai in assoluto. Ma figuriamoci, dai. Abbiamo pranzato una volta, mi ricordo, a Strasburgo con Buonanno. C'eri anche tu, dai, su. Pranzato, ma in assoluto con un. Hai pranzato insieme a Buonanno anche tu a Strasburgo, dai. Pranzato assolutamente. Vabbè, quest'uomo va fatto presidente della Repubblica subito, altro che indagine, eccetera. Pare che la sua posizione, tra l'altro, si aggravi un po', si molto, aggravi un po' la sua posizione, molto. Perché non ci sono tracce di sangue dentro casa. Mi piace ancora di più questa idea. Assolutamente, anzi dovrebbe dire adesso, non so se per motivi la di difesa. È solo una provocazione che No. Se per motivi di difesa. Aspetta un attimo, se per motivi di difesa devono dire per forza che ha sparato dentro casa, io lo capisco. In realtà, anche se avesse sparato dalla terrazza su uno che sta entrando, ha fatto benissimo. Sul ladro che stava entrando, ha fatto benissimo. Benissimo. Sicignano, show, grandissimo. Telecamere davanti casa. A me, mia moglie, nipote, i figli, i fratelli, è ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni. Non me ne frega niente. Sto male, quello che vuole che stiamo. Mia moglie trema, oggi l'ho portata dal medico, ma le sembra una cosa ragionevole. Allora, Il numero uno è questo. Innanzitutto la giornalista, che non so che giornalista di chi, non me ne frega un cazzo, che dice: non dica queste parole. Questa dice: ne ho pieni i coglioni. Quello no, si moderi perché ci sono le telecamere. E poi gli fa la domanda: come sta? Questo ha appena detto che ha pieni i coglioni di avere subito furti su furti. Ma una cosa pazzesca, dai. La vera colpa non ce l'ha nessuno, ce l'ha solo quel branco di idioti che ci sono giù a Roma, perché ci sono politici bravi, ma alcuni sono idioti, perché basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa, ma 25 anni però, perché questo non è un furto, questo è uno stupro psicologico. Allora, parla di 25 anni per chi ruba, è un tantinello eccessivo 25 anni per un furto? Sì, ma non lo so, magari nel codice di Cruciani può esserci, ma si può, sai che ad esempio in Arabia Saudita ti tagliano una mano se rubi. No, allora ragazzi, però io dico una cosa, se tu metti una, io non lo so, anche qua, se sei d'accordo. Io non lo so, no, non sono d'accordo su queste cose qui, sono contro la pena di morte, sono contrario. Va bene, quindi questo, contro il taglio della mano. Però 25 allora, anni di 25 anni a uno che ruba, a uno che stupra gli diamo l'ergastolo. Allora, ovviamente il signore, pur non essendo esperto di diritto, ma lo vorrei lo stesso presidente della Repubblica, dice 25 anni per dire bisogna aumentare le pene per chi ruba. Non c'è dubbio, va bene, questo è un No, sentiamo ancora. Primo pensiero va ai genitori, perché ha sempre 22 anni. Secondo va all'arma dei carabinieri, perché sono veramente... È un momento difficile per lei, per la sua adesso famiglia. Adesso però vi chiederei di piantarla un po', perché vogliamo tornare alla normalità. A me fanno impazzire le domande, non so perché. Questo si è messo a piangere davanti... È un momento difficile per lei e la sua famiglia. È una roba incredibile. È un momento difficile per la sua famiglia. Eh beh, certo che... Una cosa pazzesca. Siamo al top, ragazzi. That's what I said now, princess. Ma lasci stare tutte ste balle che state dicendo, non me ne frega niente. Voi ci vuole 25 anni di carcere, così vedrà che si ruberanno ancora, ma qualcheduno non va più a rubare. Ma finché i carabinieri abbiamo dei fantini professionisti, perché sono preparatissimi, e poi gli diamo gli asini per correre, dove vuole che vadano? Questo siciliano, ragazzi, poi naturalmente c'è la politica con la Lega, che dice addirittura che bisogna dare un vitalizio. Chi è che lo dice? Marcato, sì, Marcato, che è, credo, assessore in Veneto, non so, consigliere regionale. Ma forse è presidente del Coniglio Comunale di Padova. No, era. Ah, era assessore, bene. Marcato, signor Francesco, bisogna dare un vitalizio, un attimo. Ci torniamo dopo. Poi c'è stato il bonus pistola già del nostro amico Buonanno. Che c'è qua? Salvini, vabbè, un'altra frase di Salvini, abbiamo sentito ormai di tutto su questa vicenda di siciliano, del pensionato, chiamato così, pensionato che spara, che uccide un rapinatore, questo è sempre il titolo. Pensionato che uccide il rapinatore, che aveva precedente ed era stato espulso peraltro. In estrema ratio penso ai mestieri più esposti, ai taxisti, ai farmacisti, ai tabaccai, a quelli che lavorano a contatto con la gente, per cui è un costo, lo Stato dovrebbe fare lo Stato. Nel momento in cui lo Stato non riesce o non vuole o non può fare lo Stato, io ti do una mano a provare a difenderti. Allora, adesso vi faccio ascoltare Mughini, poi abbiamo un ospite. Mughini, cosa dice? Che bisogna cacciare i delinquenti a pedate nel culo e non armarsi. Ora, caro Giampiero, io ti voglio bene, però, amico mio, se si presenta un delinquente dentro casa tua, le pedate nel culo, prima ci devi arrivare a dargli una pedata nel culo. Cioè, è complicato dare una pedata nel culo a un delinquente, cioè, non siamo nei fumetti, cioè, non è una roba, ti do una pedata nel culo e quello gentilmente va via. Non accade quasi mai. No, Dobbiamo entrare nell'atmosfera di punire i delinquenti e prevenire i delinquenti. Oh, e una volta che li abbiamo individuati, lasciarli appedati in culo per sempre. Questo, non allora, armarci di tutto punto. Dopo, forse però intendeva pedate nel culo dal punto di vista quindi metaforico, non dal punto di vista fisico, attraverso le leggi, attraverso le attraverso le, insomma, le i reati da punire, le pene, eccetera eccetera. Abbiamo con noi un uomo che è spessissimo in televisione a difendere cose abbastanza scomode perché impopolari, ha ingaggiato una guerra senza quartiere contro i leghisti in televisione, si chiama Gianfranco Librandi. Buonasera, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, bene, come stai Gianfranco? Io sto bene, tu? Vedo che sei sempre energetico, sempre di corsa. Siamo abbastanza, siamo bravo, abbastanza carichi. Siamo abbastanza... È sempre sovraeccitato, caro Librandi. Adesso sembra che mi faccia, sembra che mi faccia di qualcosa. No, non si fa di niente, purtroppo, perché magari se si facesse avrebbe le attenuanti della droga, ma invece... Comunque, complimenti. Va bene, Gianfranco, io ti voglio... Librandi, come stai? Vai con, quella bella faccia, che vai lì a dire delle cose, ti togli degli sputi in faccia da certi... personaggi meticci. Ma guarda, hai ragione, però io cerco di portare delle ragioni diciamo concrete, ragionate. Cioè, tu sei un po' il Parenzo di Quinta Colonna. Il Parenzo di Quinta Colonna, sì, un po' sì, è vero. Il Parenzo... Cioè, tu vai, come io alla Zanzara, tu vai lì in questa fossa dei leoni a sostenere delle cose per me anche... alle volte molto lucide per quello e coraggiose. Grazie, molto gentile. E sei da se ti dicono qualunque cosa, maledetto che ti stuprano la madre, scusa, la sorella e anche la scusa Librandi, ma tu hai un'arma in casa, dato che sei una persona molto ambiente. Non ho l'arma e tra l'altro ho subito dei furti, uno qualche mese fa a Milano, mia figlia ha subito un furto molto brutto perché sono entrati in casa. Ma con lei dentro? Con lei dentro? No, non era dentro, è arrivata dopo. Vabbè. Vabbè, cioè, capito. Comunque, diciamo che alla non fine... hai armi, tu sei un imprenditore di Saronno, abbastanza ambiente, diciamo, per dire, per usare un eufemismo. Non ho armi e io credo che bisogna evitare di fare la cultura delle armi, perché ho sentito Marcato e Salvini che dovrebbero essere arrestati immediatamente per istigazione al reato e a delinquere, perché non si rende addirittura conto. Sì, arrestati, perché facendo così... Cosa non è sbagliato. Al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare su quello che è successo, perché io prima ho chiamato i carabinieri di Vaprio Dadda e hanno risposto immediatamente, tra l'altro, molto pronti. Invece di prendere la pistola, lui prendeva il telefono, telefonava ai carabinieri che sono a 500 metri da casa sua e i carabinieri arrivavano in 2 minuti con la macchina. Scusami, capisco. Gianfranco, il punto è un altro. Adesso andremo sulle frasi che ha detto, pronunciato oggi, molto pesanti anche contro i politici, hai sentito da parte di Sicignano. Adesso ci andremo subito perché c'è l'interruzione che dobbiamo fare, c'è pure il traffico alle 18:45, ancora ci abbiamo sto fardello. Però ti dico una cosa molto... Ma è utile perché a quest'ora c'è un casino. No, non è utile, non serve un cazzo, però aspetta un attimo. Tu non puoi dire poteva chiamare i carabinieri, perché in quei momenti lì non chiami i carabinieri quando ti vedi entrare un ladro dentro casa, non hai il tempo per farlo, non hai il tempo. Tu hai visto i filmati che hanno fatto vedere tutte le televisioni? Sì, allora, sì. I filmati sono, prima di tutto non è vero che in quella zona lì sono aumentati i ma quello dice di avere subito 5 furti, dice di avere subito 5 furti. Certo, un motivo in più, perché la casa di fianco a lui ha messo delle inferriate e ha investito i suoi soldi in telecamere inferriate. Lui ha comprato la pistola. Se tu compri la pistola devi saperla usare la pistola. Infatti l'ha saputa usare bene, gli ha sparato in fronte, certo, a quello. Ma devi anche saperla contenere la pistola, perché adesso poveraccio, lui avrà un sacco di guai. Io sono, penso, ho letto delle frasi, ho letto che è molto però preoccupato. Secondo te doveva spendere i suoi soldi nei sistemi di sicurezza più che nella pistola? Perché se tu leggi le analisi, cioè i dati della Questura di Milano del 2014 e anche i dati di Alfano, le rapine e i furti in abitazione stanno diminuendo, dove ci sono dove vengono messi dei controlli, delle strutture per evitare queste cose. Un attimo, ci torniamo subito, aspetta un attimo. Esatto. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Get your motor running, redemption in whatever comes our way. Eccoci qui con Gianfranco Librandi, che è un deputato di Scelta Civica, ormai ribattezzato da me Sciolta Civica, in tempi non sospetti, un uomo controcorrente, perché tutti vorrebbero più armi, più spari. Tutti ne molte, nessuno, molte persone, tutti. I sondaggi dicono questo, è chiaro. Ma scusa, volevo aggiungere questo fatto, a parte che anche Buonanno deve essere arrestato per manifesta, diciamo, incapacità, no? di qualche muscolo del corpo, però del cervello, dici, del cervello, dici. Allora, tu pensa, no? Se noi ci comportiamo così, cosa succede? I ladri, che vanno combattuti, perché vabbè, noi abbiamo chiaro, fatto dai. Il disegno di legge per una modifica del processo penale, abbiamo aumentato tutte le pene, però cosa succede? Se noi facciamo così, loro sono costretti a armarsi anche loro, mentre Tu dici più armi per la gente, più armi allora, per i ladri. I ladri si armano. Le persone che istigano a comprare le armi, a sparare, stanno facendo il danno delle nostre famiglie. Per favore, italiani, riflettete, perché sennò i ladri entreranno nelle nostre case già armati e non ci daranno il tempo di reagire. E, cioè, tu dici se uno vuole che gli italiani comprino, esatto. Se tu vuoi che gli italiani comprino più armi, i ladri si armano di più alla fine. Esatto, infatti la legge, l'articolo 52 del codice penale, che poi è stato modificato. Senti, però Sicignano ha detto una cosa, ha detto che ha parlato dei politici come un branco di idioti, non tutti, un branco di idioti. Io non so a chi si riferisca, se il signor Sicignano. Non lo so, ha ragione, io penso che lui, non lo so a chi si riferisce, probabilmente si riferisce a quelli che hanno fatto le leggi prima, che c'erano prima, che hanno Ma tu come lo definisci, un assassino? Lui? No, lo definisco un irresponsabile. Perché un irresponsabile, sì. Sì, un irresponsabile, perché lui deve proteggere la sua famiglia e doveva proteggere... Beh, l'ha protetta, l'ha ammazzato uno e voleva rubare. Scusa, la sua casa non è protetta, io c'ho qui la foto davanti, la casa del vicino è protetta. Ma se quello non c'ha i soldi per comprarsi gli impianti di sicurezza, scusami. Ascolta, i soldi non è un problema di soldi. Ma come no? Soldi... Quanto costa un impianto di sicurezza? Tu ce l'hai a casa, no? Immagino, a casa tua a Saronno. Io ce l'ho, costa qualche migliaio di euro, adesso costano pochissimo, anzi, annuncio che faremo l'impossibile per fare in modo che gli impianti di sicurezza vengano detratti dalle tasse, l'ho già detto più volte, anzi, per fare questa cosa ho trovato anche alcuni della Lega che mi hanno detto che sono d'accordo anche loro per fare il giustamente. Sì, non ho capito, come lo definisci Buonanno, che ha proposto questa cosa, è definito anche sui giornali inglesi, oggi un articolo del Daily Mail. Buonanno si diverte a fare... Cioè, un cretino, com'è? Un cretino. Ma non lo so, io penso che sia una persona... Disturbata. Che è pericolosa. Pericolosa. Pericoloso, pericoloso. Sì, è meglio che andava avanti a vendere le sue scope Pippo, come quando ha iniziato a lavorare, invece di fare queste Pippo. Cose. Ha ragione. Vabbè, ragazzi, che c'entra? Quello fa politica in un certo modo, quello dai. Quello è un miserabile, non è che fa, è un miserabile. No, cosa, no, vabbè, ma io ho capito. Però la cosa che Librandi dice... Il fatto che anche i giornali inglesi abbiano ripreso la notizia vuol dire che hanno ritenuto talmente bizzarra la proposta di questo miserabile deputato eletto al Parlamento Europeo, perché anche per loro fa notizia. Cioè, anche gli inglesi, che sulla legittima difesa hanno una normativa che è di poco... Sì, però io capisco che Librandi, che si può permettere di mettere un impianto di sicurezza ai massimi livelli, essendo uno che ha fatto una dichiarazione dei redditi da deputato di oltre 400.000 euro l'anno. No, guarda, quella dichiarazione dei redditi l'ho fatta perché faccio un imprenditore, il deputato. Vabbè, amico, ho detto mica da deputato, in generale, sei una persona molto abbiente, se non addirittura ricca. Allora uno può dire che questa persona è una persona che non ha molti problemi, ha una bella casa, una bella famiglia ed è una bella persona dal mio punto di vista. Quindi penso che invece di fare la scelta di comprare la pistola doveva fare altre scelte. Ma scusa, ma chiamare i carabinieri, ma non si può fare, no, perché non c'è tempo alcune volte, Gianfranco, allora, non c'è tempo. No, hai ragione, allora sai cosa fai? Perché devi dare una chance all'altro, devi fare alto là, chi va là lasciamolo perdere, perché sennò facciamo ridere i polli. Allora facciamo fermo o sparo, gli dai un secondo. Fermo, sparo, fumetti si fa, ma non è vero, ma nei film, fermo o sparo, ma di che stava a parlare? Se tu c'hai una pistola, devi saperla usare. Tu quando vai a comprare. Ma questo l'ha saputa talmente usare che ha ammazzato uno, ascolta, amico mio. Ascolta, lui l'ha saputa così usare che ha ammazzato uno e adesso è molto affranto, pentito. Ma tu ne... e avrà un sacco di problemi nella sua vita, processi, perdite di tempo. Tu speri che sia condannato, speri che sia condannato, no, come esempio? Come esempio. Io non, assolutamente, io gli sono molto vicino, penso. Beh, che una pare. Persona. No, ma non è vero, io sto parlando degli italiani in generale. Tu hai detto io faccio il politico, lo faccio col cuore. Vabbè. Cerco di indicare qual è la strada giusta. Che non è quella di armarsi, ho capito. Grazie Gianfranco, grazie, a presto. Ciao ciao ciao. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Mia moglie, nipote, i figli, i fratelli, è ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni. Beh, ok, non me ne frega niente. Ma come sta lei? Figa, come questo sta? Come cioè, sto male, quello che vuole che stiamo. Mia moglie trema, oggi l'ho portata dal medico, ma le sembra una cosa ragionevole. Ma lasci stare tutte ste balle che state dicendo, non ve ne frega niente. Voi ci vuole 25 anni di carcere, così vedrà che si ruberanno ancora, ma qualcheduno non va più a rubare. Ma finché i carabinieri abbiamo dei fantini professionisti, perché sono preparatissimi, e poi gli diamo gli asini per correre, dove vuole che vadano? Primo pensiero va ai genitori, perché ha sempre 22 anni. Secondo va all'arma dei carabinieri, perché sono veramente... È un momento difficile per lei, per la sua adesso famiglia. Adesso però vi chiederei di piantarla un po', perché vogliamo tornare alla normalità. La vera colpa non ce l'ha nessuno, c'erano solo quel branco di idioti che ci sono giù a Roma, perché ci sono politici bravi, ma alcuni sono idioti, perché basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa, ma 25 anni però, perché questo non è un furto, questo è uno stupro psicologico. Io quest'uomo lo vorrei al Quirinale. No, ma non diciamo stupidaggini. Al Quirinale. Francesco Sicignano al Quirinale. No, Parenzo, ma non vuole fare provocazioni per forza. Ma diciamo una cosa, non si sente un cazzo, per cui chiudiamo il collegamento con Parenzo e ristabiliamolo quando si sente. Ragazzi, non si sente una mazza, dai, su. Adesso non voglio offrire materiale per la parodia del sottoscritto su Radio 2, su Radio DJ, ma non è questione di... Non si sente un cazzo. La teoria del direttore del giornale Sallusti è che spesso i ladri sono in bande strafatte di coca. La maggior parte di questi signori, di queste bande che entrano nelle case, sono strafatti di coca o di droghe varie. Allora, chi mi dice che questi, nel momento in cui io divento un ostacolo e sono nella mia cucina, prendono il mio coltello e, essendo loro dei delinquenti, per di più drogati, con quel coltello ne fanno di tutti i colori. Abbiamo la questione del Papa da trattare, che è una questione complessa, per carità, ma la cosa incredibile è che un piccolo giornale, piccolo grande giornale come il quotidiano nazionale, cioè il Resto del Carlino, La Nazione, eccetera, eccetera, fa uno scoop, perché comunque è uno scoop. Poi naturalmente ci sono le smentite, eccetera, eccetera, eccetera. Ma viene attaccato subito in maniera indecente. Altri giornali che parlano di bufala, si dà retta semplicemente alle smentite del Vaticano. Io voglio dare tutta la mia solidarietà al direttore del quotidiano nazionale. È ovvio che se poi una roba del genere dovesse rivelarsi falsa, beh, uno ne paga le conseguenze. Ma perché il giorno dopo tutti parlano di bufala e addirittura di complotto? Cioè, loro sostengono, ma moltissimi organi di stampa sostengono che i signori del quotidiano nazionale si sono prestati a un complotto contro il Papa, perché questa notizia del tumore al cervello benigno, peraltro, del Papa può naturalmente far credere che il Papa sia fuori di testa. No, dunque qualcuno avrebbe diffuso questa notizia falsa, secondo questi che dicono che si tratta di bufala, per screditare la figura del Papa. Sentiamo il direttore del quotidiano nazionale, Cangini. Davvero, sono sicuro di quello che abbiamo scritto, nella maniera più assoluta. Ho anche una prova documentale, per così dire, che essendomi impegnato con la fonte ritengo che non sia possibile dare. Sentiamo qualche ascoltatore, Marco da Firenze, vai, 800 24 00 24. Io, se non sento bene Parenzo, non me ne frega un cazzo, non me ne fotte nulla, devo sentirlo bene. Marco da Firenze, bravo, dai. Bravo Giuseppe, cazzo ce ne frega di Parenzo. No, ce ne frega, però che cavolo, c'è uno perché deve andare a una cazzo di trasmissione, no, per carità, la trasmissione è bellissima, una delle mie preferite, di Formigli non si sente una mazza, non è possibile, dai. Hai ragione, senti una cosa, ma quello che hai chiamato prima, ma che era un parlamentare, un senatore, Librandi, lì, come parlamentare, chiama? Parlamentare di Scelta Civica, sì. E noi in Parlamento c'è questa gente qui? Perché, che ha fatto? Beh, esprime la sua posizione, ma, dai, perché? Sì, esprime la posizione dicendo... Vabbè, che ti è sembrato a te, come lo giudichi Librandi? Un testa di cazzo può bastare? Perché un testa di cazzo? Che ha fatto? Che ha detto? Scusami tanto, è uno che dice per difendersi dai ladri bisogna proteggersi di più. Allora mi garbava chiedere a Parenzo, purtroppo non lo sentiamo, secondo Librandi, se lui gli dà ragione, gli israeliani si devono proteggere di più dai palestinesi. Cioè non è colpa degli israeliani, non è colpa dei palestinesi, scusa, è colpa degli israeliani che si proteggano poco da quelli che si fanno saltare in aria. E questo è il ragionamento, giusto? Marco, uno potrebbe dire quella è una situazione diversa, quelli c'hanno i bazooka. Però aspetta, aspetta. Se uno paragona, diciamo, in piccolo potrebbe essere paragonata a una situazione del genere, male, no? Meno male. E poi scusami una cosa, secondo lui se i ladri sanno che uno dorme con una pistola sul comodino, allora loro si armano di più. Allora dormiamo con i Kalashnikov sul comodino, allora questi devono avere un carro armato per entrare in casa praticamente. Sì, la teoria di Librandi che abbiamo ascoltato è che in realtà se uno si arma di più, cioè più pistole ci sono in giro e più i ladri sono portati ad armarsi di più. A me pare una puttanata, però. Quindi il ladro non è che pensa, aspetta, prima di entrare in casa uno rischio la vita e quindi magari ci penso due volte sapendo che quella è una pistola sul comodino, mi sento un po' meno sicuro, no? Non ti torna? No, Marco, non lo so, francamente non lo so, io penso che sia giusto se uno vuole, cioè bisogna rendere più facile, ovviamente con dei vincoli, più facile la possibilità dell'autodifesa e dunque anche di armarsi, esatto, per carità. Esatto. Però uno non può dire come ha fatto Librandi, infatti io ho detto che quello è un irresponsabile perché non ha i sistemi di sicurezza, appunto, non c'ha l'allarme, a parte che non si sa, e poi non è mica obbligatorio mettere l'allarme, mica, esatto, mica... Poi, scusami una cosa, dice degli allarmi, a mia madre sono entrati 4 volte in casa, di cui 2 volte in 6 mesi. Sì, ma se ne sbattono i coglioni quelli degli allarmi, appunto, ladri, cioè... hanno fatto 3.000 euro di danno per entrare in casa e più devo mettere anche l'allarme, cioè ma non si lavora mia in Parlamento come Librandi noi, perché io devo proteggermi dai ladri, saranno non solo loro e non devono entrare in casa mia. No, no, ma è così, tra l'altro non è mica un obbligo, qui passa, da quello che ha detto prima Librandi, che è un deputato, ripeto, del Parlamento italiano, passa il fatto che quello là è un irresponsabile perché non ha comprato i sistemi d'allarme giusti, certo, non ha messo l'inferiore. È colpa sua perché cioè, non ma ragazzi, ma non è mica abbastanza. non è mica un obbligo comprare gli allarmi o comprare le inferriate, proteggersi, che deve mettere le torrette, che deve. Il problema di tutto questo discorso, che quella persona che ha spiegato questa cosa è un parlamentare della Repubblica, ecco qual è il problema. Va bene, Roberto Piacenza, Roberto. Ciao Pisani, dimmi. Ascolta, io ho una bella casa, sì, perché me la sono sudata, e per evitare che entrino i ladri mettono inferriate, va bene. Ho una bella moglie, sì. E per evitare che venga stuprata gli porto la cintura di castità, non so. Buona come cosa. Tu dici, se allora per i ladri bisogna mettere l'inferriata, allora mettiamo la cintura di castità per evitare che una donna venga stuprata. Logico, magari per evitare. Mi dicono che è tornato Parenzo, non so che ne pensi di questo paragone. Guarda ardito. Che c'ero anche prima e mi è arrivato un messaggio di chi ascolta, che mi ha detto che sentiva benissimo, comunque non importa. Vabbè. E cosa penso? Cosa penso di una stupidaggine, di un cioè, voglio dire, siccome la questione è seria. No, ma non è che la questione è serissima. Non è che ogni possiamo anche fare battute su queste cose, sono il primo io che le fa. No, queste non sono battute, Parenzo, però queste non sono battute. Lei si deve rendere lei di fatto. Io, non essere, ragazzi, non è un obbligo derubato. Mettere le inferriate, non è un obbligo comprare l'allarme a casa, chiaro? Devo limitare la mia libertà perché praticamente un altro mi possa entrare in casa, può venire lì a. Ma cosa vuol dire? Quindi quale sarebbe? E quindi non ho capito, quindi la risposta qual è? Spara, Yuri, spara. La risposa è che questo signore qua, questo signore. Devono avere paura. Ma io voglio dire, perché ho passato la giornata, oltre che a fare niente, come dice Cruciani, anche a capire la questione. Questo. Quindi ho telefonato a una serie di avvocati, tra cui un ex presidente della Camera, peraltro di Forza Italia. Sì, quelli che hanno contribuito alla situazione adesso del nostro paese, peraltro. Comunque, lasciamo perdere. Cosa vuol dire, tra parentesi, no, perché ho chiamato ex parlamentari. Bene, allora, opinioni fondamentali. Ho chiamato degli avvocati. Avvocati, sì, che c'entra? Avvocati, un altro discorso. Tra cui, ti ho detto, un ex presidente della Camera, sì. Avvocato, che sì. È stato anche mio avvocato. Io dico chi è, Raffaele Della Valle. Sì, come no, certo. Avvocato di Forza Italia. Sì, ex Forza Italia, non è più di Forza Italia. Ex una vita. Forza Italia. Appunto. E gli ho chiesto un parere tecnico su questa roba. Sì. Allora mi ha detto, io lo dico con le parole con cui che piace a te, sì. Che non sono le sue, non è no, il suo con le parole comprensibili a tutti più che altro. Parole che piacciono a te. No, che comprensibili a tutti, comprensibili a tutti. Le persone capiscono il linguaggio mio, ma parlo col tuo. Sì. Il tuo è aperte virgolette. Dire oggi di cambiare la legge sulla legittima difesa è, lo dico col linguaggio tuo, sì. Una puttanata. Benissimo, ma io non ho capito perché Della Valle chi è Dio? Non ho capito. No, perché già, no, ma cioè, se vuoi te lo spiego, però non è una lezione no, di diritto. No, però me lo spieghi dopo lo. Come non è una lezione di diritto, ti dico che già oggi sì. La legittima difesa esiste sì. E la cagnara che si sta facendo sul fatto che questo pensionato è stato semplicemente per ora indagato. Ma lascia perdere, non è questo. Per omicidio volontario. Sì. Per omicidio volontario e sai perché è successo. Va bene, allora non lo vuoi la cagnara no, l'hai spiegato tu ieri. C'è un morto, quindi è normale che avvenga questo. Ma chi ha detto che non bisogna aprire le inchieste? Chi ha detto che non bisogna aprire le inchieste? Beh, chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma che dici? Ma che dici? Sparare, basta. No, sparare. Io ho detto si deve sparare stronzate come stai facendo, ovviamente. Va bene, non hai capito e non capirai. Quello non è un reato, sparare stronzate non è un reato. Bene, fermi là, fermi. Bravo Giuseppe, cazzo ce ne frega di Parenzo. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Di questa follia totale di mettere il canone della RAI nella bolletta elettrica, io purtroppo lo pago il canone RAI, lo ripeto per l'ennesima volta, sono molto tentato, sono stato per anni tentato, anzi non l'ho pagato per tanti anni, semplicemente perché non mi andava di tenere in piedi un carrozzone con sprechi pazzeschi eccetera eccetera. In altri paesi dove c'è il canone la gente lo paga anche volentieri perché non vede sprechi pazzeschi, soldi buttati, dirigenti tenuti lì senza fare un cazzo per anni e pagati centinaia di migliaia di euro l'anno. Questo è il punto fondamentale, cioè la percezione delle persone non sono tanto i programmi, come scrive Aldo Grasso. Sì, anche quello, sicuramente, però lì si entra nel campo, come dire, della discussione sul servizio pubblico, di cosa piace e cosa non piace. La cosa fondamentale è che la gente vede la RAI come un apparato dello Stato, cioè come una fonte di sprechi indicibili, ed è per questo che non vuole pagare il canone, oppure anche chi lo paga prova un senso di fastidio, e io questo lo capisco, e per tanti anni ho fatto lo stesso ragionamento, me ne sono fottuto. A un certo punto, che è successo? È arrivata una letterina a casa da parte dei signori di Torino, della RAI, i quali mi hanno detto: vuole cancellare il passato e cominciare a diventare abbonato da quest'anno, e io ho ceduto, devo dire la verità, ho ceduto rispetto alla mia anima un po' rivoluzionaria, o comunque a quello che penso della Rai e di tutto il resto, e dunque ho cominciato a pagare il canone. Ogni anno pago 600, 112 eccetera eccetera, non me ne fotte nulla della riduzione di 8 euro, che è anche offensiva nei confronti di chi paga il canone. Secondo me è un'offesa, cioè dice ti diminuisco di 8 euro, ma che ci faccio con 8 euro in meno io, ma tanta altra gente. E questo è, cioè, ma questa roba della bolletta è incredibile, perché succederà un caos inenarrabile, ma figuriamoci la bolletta, i gestori delle bollette eccetera eccetera. Direi che Crozza, da questo punto di vista, è stato, come dire, ha messo la parola, ha detto la parola definitiva su questa storia della bolletta. Poi però sotto abbiamo i servizi di rete, cioè i costi dell'azienda e gli oneri generali. Che minchia sono gli oneri generali? Ve ne leggo solo alcuni. Allora, copertura bonus componente AS, sostegno alla ricerca di componente A5, promozione efficienza componente UC7, agevolazioni alle ferrovie dello Stato! Alle ferrovie dello Stato! Allora, come minimo mi scali la bolletta dal biglietto del treno. Ma sentite questa, ragazzi, questa è bellissima. Costi per mettere in sicurezza il nucleare. Ma che quale nucleare? Che io c'ho una bajur, un marcia, un frigo. Cioè, la cosa geniale di Crozza è che ha elencato tutti i costi aggiuntivi rispetto al costo di una bolletta, ed è la roba che ci arriva a noi, io manco le guardo, purtroppo manco le guardo, invece dovrei guardarle e incazzarmi ogni volta, come hanno fatto probabilmente gli autori di Crozza o qualcun altro. La cosa fondamentale è un'altra, che il canone Rai dovrebbe andare tra questi costi. Cioè, già uno si incazza perché vede, capito, il nucleare, quando lo vede il nucleare, cioè paghiamo in più la bolletta per i costi del nucleare, di piazzare le scorie, non so che cosa, di smaltimento dell'ex nucleare che abbiamo. Roba pazzesca, dai. Ma come si può pensare in Italia di varare un'operazione così complessa come questa? Poi perché cosa? Poi tra l'altro prevedono pure delle multe, cioè se non paghi, cioè, se dici il falso di possedere, di non possedere un televisore, diventa reato, cioè con tutti i problemi che abbiamo in Italia nei tribunali. Sarà un illecito. No, reato, non sei un cazzo, è reato, cioè diventa reato, che illecito amministrativo. Cioè, è come non pagare le tasse. Diventa un reato, cioè ti portano in carcere, si può arrivare anche al carcere, cioè, ma è una cosa incredibile con tutti i reati che ci sono in Italia. Basile da Roma, dai. Vai, Basile, dai. Parlare della storia. Anticamente nell'ex Valaia, il conte Tepes, Dracula, impalava i ladri, non è che mandava in carcere. Così, non ho capito, scusami. La gente, dico, impalava i ladri. Chi impalava i ladri? Il conte Dracula. Sì, eravamo anche in un altro periodo storico, il signor conte Dracula. Esatto, esatto. No, è vero che vengo da quelle parti, però dico la storia... Cioè, sei romeno tu, sei romeno? Sì. Sei romeno, sì. Parlo anche altre lingue. No, amica, parli, sono contento che parli altre lingue. E dunque? Vabbè. Dunque, no, volevo dire solo questo, non niente altro. Dunque? Non ho capito. Cioè, secondo te i ladri vanno impalati? Non volevo dire questo, dico, si parlava che gli arabi tagliavano le mani, non lo so, e Dracula invece impalava. Vabbè, ho capito, lo dici in maniera soddisfatta, cioè con voce soddisfatta, o no? No, non lo dico con la voce soddisfatta, però quasi. Sono contrario ai ladri, no. Ai ladri siamo tutti. Non ho mai rubato, non ho mai. Ma siamo tutti contro. Ecco, io la cosa che ti volevo chiedere, dato che sei romeno, è quando senti notizie di tuoi connazionali, come in questo caso, no? È quello che mi arrabbia, perché tante volte ci sono i zingari che vanno a rubare, il romeno di turno, quelli che sono come me, con la famiglia qua, con tutto quanto, vanno al lavoro, fanno il loro lavoro, pagano ciò che devono pagare e tutto. Certo, ci sono un sacco di romeni in Italia, nel mondo, in Europa, infatti, eccetera, che vivono in maniera tranquilla, lavorano come negri, eccetera. Come negri è un'espressione, ragazzi, non mi incazzate. Il fatto che nessuno dice guarda quanti ci sono quelli che lavorano, guarda quanti ci sono quelli che sono bravi. Beh, comunque vanno impalati, tu dici vanno impalati, bisogna apprendere da Dracula. No. Amico mio, però solo io dici. Volevo dire come diversità delle cose, di quella storia. Ho capito. Si dice anche questo. Non so. Va bene, ciao Giancarlo, provincia di Rimini. Ciao Basile. Ciao Giancarlo, vai. Ciao Cruciani. Niente, io volevo solo dire che la delinquenza purtroppo non la metteranno mai a posto, perché è un business. La delinquenza praticamente fa aumentare il PIL e a Librandi. Librandi si è scoperto, perché lui è un imprenditore e essendo un imprenditore ha bisogno del PIL. E l'Italia ha bisogno del PIL, quel zero virgola lo fanno i delinquenti, lo fanno quelli che entrano in Italia abusivamente. Mi sembra che a un certo momento ha cercato 3 miliardi dall'Unione Europea il signor Renzi, dice che non costano niente. No, ma non ho capito, Giancarlo, non ho capito perché le parole di Librandi, quello che ha detto Librandi, aumentano la delinquenza, perché lui sarebbe a favore della delinquenza, non ho capito, è abbastanza curioso. No. Io dico che la delinquenza non la metteranno mai a posto, perché in 3 giorni, se vuole l'Italia, la delinquenza sparisce. Hanno il modo di farla sparire, ma siccome che è un business, non la faranno mai sparire. Ma un business per chi? Non ho capito. Un business per lo Stato italiano, perché se io devo andare a fare le inferiate quando me le spaccano, a un certo momento aumento il PIL. Ah, tu se dici... Io devo... Ho capito. Se io devo fare qualsiasi, quando mi rompono la finestra, devo andarla a riparare e aumenta il PIL. È tutto una questione di interesse, tutta una questione, non metteranno mai a posto queste cose. Ti dico solo una cosa, a me mi hanno rubato il camion lungo Tevere a Roma. Sì. Nessuno ha voluto farmi la denuncia, dalle 8 di sera a mezzanotte, passando 3-4 diciamo posti di polizia, carabinieri, bene, ho dovuto fare a Rimini la denuncia. Va bene, Renato, ho capito. Non ne fanno nessuno. Renato, provincia di Torino, Renato, vai. Pronto, ciao, sì, Cruciani. Dimmi. Io vi rispetto tantissimo, però devo dirvi questa cosa. Cioè, secondo me è una roba privata quella tra chi ha ucciso e il ladro. Dovete smetterla di fare... In che senso è privata? Non ho capito. È privata, è roba loro. Sono due tragedie. Che vuol dire roba loro? È roba loro, che vuol dire? Roba loro. Tu ci speculi, scusami, ci speculi sopra per fare audience. A te non te ne frega un cazzo. Vedi uno, me dell'altro. No, ti sbagli invece. A me non me ne frega niente di tante cose, ma di questa cosa qui mi frega tantissimo. Tu, guarda, in questo momento, per questa cosa, perché per il resto va tutto, io vi seguo molto, però per questa cosa qua che è delicata, secondo me basta, perché poi alimentiamo sta roba qua, è giusto, la pistola, non la pistola, è sempre sbagliato uccidere un uomo, sempre, da qualsiasi parte. Renato, è sbagliato, io ti aggiungo, non è che dipende, se io ammazzo per difendermi, difendere la mia famiglia, ma i miei figli, è eccetera. Sempre sbagliato. Ma non è vero. Scusami, tu mi dici, sono contro la pena di morte e poi ma che c'entra? La pena di morte va bene ammazzare un ladro. Ma Renato, non ti accorgi da solo della cazzata che stai dicendo? No, perché la pena di morte è lo Stato. Renato, la pena di morte è lo Stato. Fai rumore e chiami la polizia. Questo sicuramente non ti viene a cercare, scappa. Sì, ma voi ragionate veramente come a tavolino. Questa cosa qua basta, perché è una roba loro. Quello là sta soffrendo. Non è una roba. Vabbè, ha ammazzato un uomo. Allora, ammazzato un uomo, ha ammazzato un uomo. Infatti per questo si sta parlando. Non esiste, non bisogna uccidere, se no si alimenta. Aveva ragione quel deputato di sciolta civica. Aveva ragione, basta, perché alimentiamo poi nel cervello delle persone che bisogna essere armati per difendersi. Non è vero, cioè, esiste uno Stato e dobbiamo dimostrarlo proprio in questo modo. Chiudi a chiave, fai rumore, telefoni di nascosto, la polizia arriva, se non arriva non ti sei fatto male tu, non sei fatto male lui, è solo roba che porta via. Tu roba. ragioni in maniera astratta, uno va in casa, si chiude, poi astratta. Telefoni alla polizia, quello in 3 secondi sta dentro casa, ti stupra la moglie, amico mio, Renato. Allora ci sono un fracasso di furti, ma di omicidi ce n'è ben pochi per i furti. Meno male, c'è gente che viene picchiata, ammazzata. Mettiamola lì, sono cazzi loro e se la vedranno loro. Ma come sono cazzi loro? Ma che vuol dire? L'altro. Ma non succede tutti i giorni. È una roba che adesso succede i furti dappertutto. In TV parlano di questo. Voi parlate di questo. Capisco che fa audience. Adesso cambiamo. Non ti preoccupare, cambiamo. Ciao Renato, ciao. Va bene, ciao. cazzo è tornato? Non ho capito. Ma io ce l'ho sempre stato nella mente. Sì, sì, no, ma non parli, per cui non so. Ma no, cosa, cioè, questo qui non lo devi dire, cioè, non sono d'accordo. No, ma se non vuoi partecipare, puoi anche non partecipare, non dire, c'è non problema. Parli, ma non puoi partecipare, se non vuoi partecipare, puoi anche non partecipare. Cioè. Ingaggiando tu. No, ma sono 25 minuti che non parli, però va bene, non c'è problema. Prima non c'è mai problema. Detto che non sentivi. Poi mai detto. Platinette, no, con noi, Mauro, come stai? Mauro! Buonasera, ciao Giuseppe, bene, grazie, spero altrettanto di te. Ti adoro come sempre, anche perché finalmente programma lunedì venerdì su RTL. Quando hai iniziato? Ho iniziato l'11 di ottobre. Ma già qualche. Tu sei praticamente una sorta di puttana della radio, perché le hai fatte praticamente tutte. No, tesoro mio, a parte che sono una puttana, se io sono una puttana, sono una brava maestra, tu sei un bravo alunno, te lo vorrei dire. Ma era in senso positivo, particolari poi non passaggi di questa estate. Ma sorvoliamo, perché io sono una signora per bene. Ma che c'entra questo? Come non c'entra? C'entra? Non c'entra io niente. Sono una, tu mi dai della troia dell'essere. Ma no, ma in senso, ma in senso positivo era, non è in senso negativo, amico. Io ho sempre detto che la do via a chi mi paga, ma sarebbe altro che non fosse così. Ma assolutamente. Però ti devo dare una brutta notizia. Cioè? Non sono più platinetto. Sì, lo so. Presenti il programma come Mauro Coruzzi. Ma capito, perché vuoi uccidere Platinetta? Cioè, Platinetta è morto. No, non è morta, fa delle altre cose. È morta. Io ho bisogno, dopo tanto, stare borderline. Cioè, quello, adesso lo dico con lo slogan di entrare a far parte senza nessuna sofferenza della cosiddetta very normal people. Quella che io e te non conosciamo affatto, perché abbiamo sempre pensato che vivere un po' border, essere dei fuori classe, ci facesse, ci gratificasse più di tutto il resto. Adesso mi sono accorto che probabilmente non solo non è vero, ma che è molto più eccitante fare ciò che non si è fatto prima, rispettare delle regole, ad esempio. Vabbè, ma che c'entra rispetto? Perché prima non le rispettavi le regole, prima non ho capito. No, ma ti pare che un obeso di 170 kg dichiaratamente frocia, con un aspetto orrendo e con delle posizioni non condivisibili dalla maggior parte della froceria italiana, fosse una che rispettava le regole. Ma perché adesso che vuoi diventare eterosessuale, dire che i matrimoni gay vanno bene, adottare un bambino, che vuoi fare? Non ho capito. Ma niente di tutto ciò, perché questo non è per niente il contrario dei pensieri di prima. Vorrei semplicemente. Scusa, mi suonano perché mi stanno portando la cena. Posso andare a aprire? Sì, vai a aprire, vai a aprire. Ma chi è che ti porta la cena? Non ho capito. Ho fatto stasera un giapponese, riso bianco, kirimi, sì, e due fette di salmone, perché sono a regime alimentare ristretto. Ma scusa, prima che te mangiavi per essere diventato 170 kg, spiegami, oppure era una cosa ormonale? Tanto mi mangiavo i miei rosti e li buttavo giù e ingoiavo. Vabbè, quello, vabbè. Adesso, prima mangiavo anche mezzo chilo di pasta a botta, caro mio. Mezzo chilo a botta? Tu non ti sei mai fatto fare un rigatone da me? No, quello no, mi manca. Devo dire che il rigatone da Mauro, da Platinette, non l'ho mai sognato. Devo dire, io ho sognato tante cose. Anziane un po' corpose. No, ho detto semplicemente che mi piacciono tante cose perverse nella vita, però il rigatone da te non mi è venuto in mente. E a un uomo gli metti, gli adombri anche soltanto un attimo di presunta omosessualità, subito reagiscono, no, come di fronte a Equitalia. No, assolutamente, non è così. Io invece comincio a pensare che qualche esperienza con un trans la vorrei fare, per esempio. Solo con un trans, ma tu saresti a parte attiva o... Beh, chiaramente attiva, amico mio. Chiaramente attiva. Per quell'enorme bestia che tu mi dicono. Ma no, dai, basta con queste storie. Scusa, vedi che quella roba là della trasgressione usata come regola è una rottura. No, ma se è scontata, sì, dipende se è scontata. È scontata, te lo dico io. È scontata. Parenzo? È molto meno scontato cambiare vita. Io su questo non ho, come sai, su questo tema non ho moltissimo da dire, ma ti lascio il campo libero, che sei più... Non hai moltissimo da dire. Su quale tema? Non ho capito. No, diciamo su come su rigatone, il rigatone, eccetera, no? Il trans solito, insomma, questo è un tema che affrontiamo. Se vuoi, vi ricordate una vecchia pubblicità della Barilla che a un certo punto, a proposito, c'era ambientata di pari in Russia, dove in una tavola di un ristorante, a un certo punto la donna della coppia diceva rigatone. Questa è la famiglia. No, sto pensando a Barilla per un momento, meraviglioso Barilla, sì, al grande Pietro Barilla, chissà come la provò. Quindi era un uomo molto più spiritoso. Era molto più spiritoso, magari degli altri, dici. No? Va bene. Senti una cosa, ma quanto sei dimagrito? Pare una quindicina, non so da. che pulpito partisti di peso massimo, nel senso che non lo voglio sapere, so che il 31 di insomma alla fine del mese di settembre, sì, perché ho fatto l'intervento l'8 di settembre, ero calato 8 kg. Vabbè, oggi quanto sei di meno rispetto a qua, quando è iniziato sta cosa? Non lo so perché mi pesano come le vacche su una pesa apposita alla fine del mese, ma presuppongo, visto la circonferenza di Milano e tutto il resto, di sei intorno ai 15. Cioè, oggi quanto pesi? Ma col cavolo che se anche lo sapessi te lo dico, non lo voglio sapere, che non voglio entrare nell'incubo del sparutista. Ma a quanto vuoi arrivare invece? A quanto vuoi arrivare? Voglio arrivare a respirare, a fare un paio di rampe di scale. Vabbè, queste tipo, vuoi arrivare a 100, a 90, no, sotto i 100? No, ma quella è magrezza per me, ma scherzeremo. Ma che voglio so, 120, so. 100, 130, che ne so? Se non fossero dei colleghi e i rivali, vorrei arrivare, so, almeno a 105, so, non so. A 105 voglio arrivare, a 105 kg, che per me... questa mi è uscita così. No, è buona, però... dal punto di vista professionale, perché sto benissimo dove allora, sto. Però io dico una cosa, 105 kg è tanto comunque, 105 kg, ragazzi, cioè, da 170 a 105, non però devo dire... Ma 105, ma io se passassi 105... Ma Scotti, scusa, ti sembra un obeso? No, ma no, però sarà più di 100 kg, no? Ho capito, ragazzi, ma 100 kg, oh, ma, cioè, ma non si può essere 100 kg, ma graverete sul ma servizio. Io sono alto 1,80, non sono del paese dei puffi come te, è bello. Ma non è il paese dei puffi, è una cosa di normalità, no. Ma 100 kg è una cosa che uno pesi su, hai un sacco di problemi. Ma un qualsiasi palestrato di 1,80 è 100 kg almeno di muscoli, non saranno muscoli miei. Ma non sto per niente inseguendo la magrezza, è l'ultimo dei miei obiettivi. Sto semplicemente pensando che non posso fare la rockstar per tutta la vita, e che quindi, come altri, ho limitato il vizio, meglio, ho sostituito il vizio con la virtù. Ma sei ancora un gay? No, questo lo capivo. Sei ancora un gay di destra o no? Non lo sono mai stato, pensiero autonomo libero, né a destra né a sinistra, direbbe il nostro amico Vittorio Sgarbi, sopra! Sopra, ma sei, ti vuoi, sei fidanzato? C'è un fidanzato o no? In questo momento no, ho varie frequentazioni, ma di natura intellettuale. Ma ti sposeresti? No. No. Mai? Pensi che il matrimonio sia una puttanata, dai, su, diciamolo. Il matrimonio. Penso che gli esempi che ho avuto in famiglia mi abbiano dimostrato questo, e sentire tante amiche femministe di 30 anni fa, sposate, coppia aperta, libertà e compagnia cantante, mi dicono esperienze loro che non solo il matrimonio, direbbe la signora Aspesi, è la tomba dell'amore, ma che anche l'amore non ha bisogno di tutta questa attenzione mediatica. Pensi, per salvaguardare i partner esistono già, questo non impedirebbe a un governo che funzioni di fare con velocità, anche perché sono legittimi. No, certo. No, ci rompiamo le palle dai tempi di Prodi. Sì, lo facessero e basta. E poi... No, lo facessero e basta. Sì, questo è vero. Questo non è vero. La storia della stepchild adoption, la trovo... Cioè, l'adozione, no, tu non ti sentiresti in grado di tirare su un bambino? Ma se non ho neanche un animale per casa, non mi sono preso cura di me. Per 59 anni vuoi che mi prenda cura di una creatura, sì, ma adesso... terrorizzato. Certo, fermo. Pippe, molte pippe. L'assicurazione del credito per le micro, piccole e medie imprese con gli esperti di Euler Hermes Italia. Ben trovati, oggi rispondiamo alla domanda: come si può acquistare Simplicity, la polizza di assicurazione crediti per la micro e piccola impresa? Risponde Andrea Misticoni, direttore commerciale Euler Hermes Italia. Chi avesse interesse ad approfondire l'argomento può visitare il sito assicurazione-credito.it per analizzare le caratteristiche di Simplicity e orientare la propria scelta verso la formula migliore. A questo punto, se pronti per sottoscrivere Simplicity, contattando la più vicina agenzia generale Euler Hermes, un'ampia rete di professionisti che sapranno consigliare al meglio il singolo imprenditore e lo seguiranno passo passo per tutta la durata contrattuale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo sul sito assicurazione-credito.it. Tutti gli approfondimenti su radio24.it nella sezione L'assicurazione del credito per le micro, piccole e medie imprese. Edizione straordinaria! Per gli appassionati di attualità e news c'è un regalo sicuro con i formaggi Ferrari. Cosa c'entrano i formaggi con le news? Ce lo dice la nostra inviata! Per ogni confezione in promozione di grattugiati Gran Mix, Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Tilsite Fontalpe, in regalo una copia della rivista Oggi da ritirare in edicola o il Corriere della Sera Digital Edition. Regolamento su ferrariformaggi.it. Ferrari, dal 1823 tutte le qualità del formaggio. Prometti che ti prenderai cura di lei sempre? Sì. Che l'amerai e l'accudirai con tutte le attenzioni? Sì. Che ti ricorderai di cambiare le pastiglie freni anteriori? Sì. Che effettuerai il cambio degli pneumatici invernali entro i termini previsti? Sì. Bene, ti dichiaro cliente Motorcraft Service. Per la cura della tua Ford con più di 4 anni, scegli la fedeltà di Ford Motorcraft Service e l'amerai come il primo giorno. Sostituzione pastiglie freni anteriori a 99 euro. La mia impresa vuole sviluppare un'attività sui mercati esteri. Come posso fare? Grazie ai Master Theme Academy puoi ospitare gratis per 2 mesi un temporary export manager che ti aiuterà a realizzare il tuo progetto export. In soli 2 mesi e senza nessun costo? Sì, grazie ai fondi del Ministero dello Sviluppo Economico sarai affiancato anche da società specializzate senior e potrai candidarti per i voucher del Ministero. Finalmente! A chi devo rivolgermi? È un progetto ICE Agenzia, in collaborazione con 6 partner, ice.gov.it. Italif e Terni Energia ti aspettano il 30 ottobre dalle ore 9 in Borsa Italiana con Energy for Innovation. Manager, operatori del mondo finanziario, esperti dell'innovazione e del mercato energetico si confronteranno su rinnovabili, gas and power, efficienza, startup, nuove tecnologie per un'industria smart. La comunità finanziaria e industriale italiana si dà appuntamento il 30 ottobre a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano per il workshop Energy for Innovation con Enel Green Power, Unicredit Start Lab, Terni Energia, Italif e tanti altri. Energy for Innovation. Per informazioni e iscrizioni gratuite www.ternienergia.com. I grandi successi non hanno confini. Come 500X, nata in Italia per arrivare ovunque. Oggi con il nuovo motore diesel 1.3 Multijet, progettato per ridurre costi e consumi. Con Formula 500 per tutti, tu a 16.900 euro con cerchi Lega e Uconnect Radio Touch. Solo fino al 31 ottobre, salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su fiat.it. Anche sabato e domenica. Buongiorno Ghirardi, è possibile personalizzare il nostro gestionale Fluentis in modalità cloud? Certamente direttore, grazie alla tecnologia hybrid di Fluentis ERP e alle competenze dei suoi partner. Perfetto Ghirardi, allora cerchi subito il partner Fluentis più vicino a noi e concordi pure un appuntamento in azienda. Chiama l'800 300 307 o scarica l'app da fluentis.com. La Zanzara. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Io vorrei sapere, Parenzo, anzi sono curioso, tra qualche anno di capire come andrà a finire la storia di Sanremo, no? Dove c'è questo scandalo assenteismo spaventoso con 35 arresti, 195 indagati, dove metà dei dipendenti del comune truffava lo Stato. Ora Renzi dice, naturalmente ed è facile dirlo, chi ruba nelle aziende pubbliche deve essere cacciato, eccetera eccetera, magari non riferendosi a quelli, ma insomma chi truffa nelle aziende pubbliche va cacciato immediatamente, ma questo è perfino banale dirlo. Il problema è che va a finire spesso in modo diverso. Beh, dipende, che... non sempre è così, perché ad esempio alcuni deputati sono stati accusati di altre cose non, e quindi rubano in un certo senso al pubblico. Ma che c'entrano i deputati? Io parlo dei dipendenti, non c'entrano niente i deputati. No, ma se tu dici come dice Renzi, no, il ragionamento è questo. Se Renzi dice i dipendenti che hanno truffato lo Stato, hanno rubato, in quanto funzionari dello Stato hanno rubato allo Stato. Ma di quello si sta parlando, di funzionari che c'entrano i politici, i funzionari dello Stato, cioè i dipendenti pubblici. Che hanno rubato quei soldi pubblici col finanziamento. Vabbè, ma quello quello è scontato. Io sto dicendo che non tutti l'avessero. Vabbè, ma i dipendenti pubblici che non timano il cartellino, che vabbè, truffano lo Stato, spesso la fanno franca. L'hanno fatta franca anche quelli che rubavano dentro le valigie negli aeroporti, ragazzi, è così. Per cui oggi stiamo dicendo questo, devono essere cacciati, Renzi dice devono essere cacciati. Io voglio vedere tra 4, 5, 6, 7 anni che li vediamo tutti lì, perché poi ci sono i ricorsi, i sindacati, il giudice del lavoro che ti dice che non è una cosa. Una cosa del lavoratore orrenda. È una cosa orrenda, dai. È con noi. Scusa, posso però dimmi, Mauro, relativamente a questa storia. Vorrei capire se sono stati, saremo la maggioranza di dipendenti a fare il doppio timbro e compagnia. Il restante, la restante parte cosiddetta sana dei lavoratori, che si sarà accorta se la maggioranza omertosi perché stanno zitti. La colpa è anche loro, sì, la colpa la è anche colpa di è soprattutto loro che non li hanno denunciati per primi, non potevano fare dai dipendenti pubblici. È vero. Ma sai che rinfrescata d'immagine il dipendente pubblico avrebbe avuto da un'azione del genere fatta dai cosiddetti sani, questi guardavano e basta, quindi doppiamente cretini, perché non solo non godevano del tempo libero. Sì, sì, no, ma è vero, è vero. Vittime, magari pagavano, sì, pagavano di più, lavoravano di più, lavoravano di più delle vere merde, ma dico io, ma ribellati a quello che stanno facendo i tuoi colleghi, mica i miei. Allora, io vorrei farti ascoltare però quello che ha detto Lasciarelli su Barbara D'Urso, a proposito della vicenda delle interviste. Amico mio, là ti volevo adesso, adesso vediamo se hai le palle di dire come la pensi. Le trappole di Cruciale, aspetta, aspetta, Lasciarelli sulla D'Urso, a proposito delle interviste pagate ai genitori, ai parenti del ragazzo, del ragazzino morto. E sul fatto, beh, che non è giornalista, ma quello chi se ne frega, non è una polemica che mi interessa. Ormai, su questo il giornalista fa l'intrattenitore, mi sembra, dall'altra parte. Esatto, no? Su questo ho sempre dato ragione alla D'Urso. Sciarelli. Okay. Si parla di soldi presi per interviste televisive, di familiari che dicono una cosa quando sono soli e un'altra quando invece sono davanti alle telecamere. Guardate, noi non facciamo distinzione, noi diciamo sempre che non paghiamo, se lo fanno della RAI fanno male, ma ci sono alcuni familiari che escono dallo studio televisivo di turno con un assegno in tasca. Tra l'altro noi giornalisti abbiamo un codice deontologico e sono i giornalisti, per esempio, non tutti lo sanno, coloro che non possono fare la pubblicità, perché sarebbe come sfruttare la propria immagine, no? Che in questo caso è la RAI che mi dà la possibilità, certo, di avere un'immagine e di farmi soldi con dei prodotti pubblicitari invitando il pubblico, eccetera. Quindi per esempio i giornalisti non possono fare pubblicità perché sennò vengono radiati dall'albo, e quindi quando vedete invece qualcuno che fa pubblicità, quello non è un giornalista. Alcuni familiari hanno preso i soldi per andare negli studi televisivi, no? 2.500 euro a puntata televisiva, che è molto di più di quanto guadagna un operaio in un mese, due mesi, eccetera. Ma il papà di Lolis, che cosa le ha detto? Ma è chiaramente rimasto veramente scioccato. Allora, io non faccio il moralista, non me ne frega niente, so benissimo come funziona il mondo, so benissimo come funziona il mondo, cioè, però devo dirti la verità. A me una roba, e non dico chi qua, perché bisogna avere poi le prove, naturalmente in questo caso ci sono però delle intercettazioni abbastanza chiare. Le intercettazioni, il problema è che le persone vengono pagate per essere intervistate, e io francamente lo so che si fa, ma lo trovo abbastanza schifoso. Un sistema, aspetta, allora, Mauro fammi finire. Trovo abbastanza schifoso il fatto che ci sia un'azienda, non so quali, che paghino gli ospiti. Questo lo trovo abbastanza schifoso, te lo posso, allora, dire. Io ti controbatto. Non è schifoso se tu lo dici. Cioè, se tu dici per venire qui ho preso un cachet, cioè la cosa deve essere trasparente, mi sta bene. Okay. Poi c'è un'altra aggiungere un dettaglio. Dimmi. In questi giorni ha fatto notizia, ma relativamente. La storia che ha detto l'intervista a Raffaele Sollecito nella domenica, firmata da Costanzo, fosse un'intervista pagata. Sì, okay? Sì, però allora, l'hanno detto. Aspetta, se tu sei un familiare di una vittima di un fatto di cronaca nera, sei tu familiare che dovresti vergognarti a ricevere quei soldi. Vabbè, quello d'accordo. Perché è un'imposizione. Sei obbligato ad andare in televisione a mettere in pubblica piazza il tuo dolore? E poi fai quello che è stato beffato perché è stato pagato, cos'è? Il gioco delle parti? Non scherziamo. No, ma io non dico che sembra diventato un mestiere quello familiare della vittima che va in TV. E se è un mestiere, allora che sia retribuito più o meno regolarmente. Lo scandalo non sta da nessuna parte. Ma come, non c'è scandalo? Lo scandalo sta nel fatto che pare che le cose che ha detto vabbè, ma quello chi se ne frega, ognuno, ma quello ognuno, quello è un altro discorso. No, caro mio, perché qui è alla cassa. No, però scusami, Mauro, scusami, la cronaca non fa più. Vabbè, ma quello è un altro problema. Il problema è fondamentale: se tu chiami studio delle persone, le paghi, e addirittura, come sembra dall'intercettazione, addirittura per dire certe cose, cioè suggerisci una versione, e beh, amico mio, quelle cose cambiano però, Ma tu pensi che tutti i familiari di vittime di fatti di cronaca siano dei beoti e che non capiscano che il modificare semmai una verità è un problema che dovrebbe sempre riguardare la siamo loro d'accordo, ma io fatto di farti dare del denaro, vabbè, insomma, tu non ti scandalizzi dal tuo cachet, non ti scandalizzi per questa cosa. Non solo non mi scandalizzo, trovo riprovevole che i familiari facciano diventare un mestiere il loro apparire in ma quello d'accordo e facciano ma... pagare e invece la D'Urso, la D'Urso va bene, la D'Urso va tutto bene, la televisione li vuole pagare, cioè la D'Urso, cioè Mediaset che paga gli ospiti dandogli quasi uno stipendio del... va tutto bene. Ma perché dovrei scandalizzarmi? È forse pubblica Mediaset? Vabbè, ma che c'entra? Io non so, ripeto, a scandalizzarmi molto di più i parenti che vanno, si fanno pagare e poi protestano, ma i soldi indietro non li ha mica ridati però, Ma no, ma quello va bene, quelli sono quello allora, che sono quello che problema? Sono, dai, quello si giudica da sé, dai. No, su, ma infatti, ma io fai il problema etico. Beh, ma non niente. È solo etico il problema, non me ne frega niente dell'etica, no, ma anche il fatto che le versioni sono, cioè quelli spingono per arrivare lì a dare una versione, dai. Beh, su. Ma quindi è un problema etico, ha ragione lui. Se tu, fratello o sorella di nostro figlio, accetti il fatto che questa sia una prassi, perché se la avvalli e lo fai, no, dai la loro presunta versione dei fatti. Non solo fai un torto al tuo parente morto, ma lo fai a te stesso. Vabbè, tu te la prendi solo con i parenti. No, ma allora guarda che ha ragione lui su tutti i rabbi, perché non ti piace la parola etica, perché la ritieni troppo moralista, troppo sì, da politica di corretta. Non lo riguarda lui. A lui proprio non piace, ma in realtà ha capito il senso, cioè non si capisce perché gli piace la parola etica. Tutti hanno un'etica, spero. Un'etica, poi vabbè, ognuno può avere. Allora, poi... C'è anche mi una disetica relativamente alla televisione. Vabbè, la allora... televisione... Non però è io ovviamente personalmente non pagherei mai un'intervista di questo tipo, non lo farei mai, mi permetterei mai di pagarla. Questo è un altro discorso. Ma questo ci mancherebbe altro, io non lo farei mai e trovo che non sia neanche deontologicamente corretto. Di quelli che hanno fatto veramente. Però quella è un'altra cosa, cioè quella è un'altra trasmissione, no? Senti, come lo definisci invece per chiudere il prete omosessuale che ha fatto quella dichiarazione? Sì, Calamsa. Dal nome di una soubrette spagnola, così lo definisco. Una soubrette che è apparsa al momento giusto, nel posto giusto. Addirittura. Uno che se fosse stato il mio prete, ma grazie a Dio, paradossalmente io non ho fede, l'avrei mandato all'inferno subito. Là, il coming out che ha fatto non serve a nessuno. Di leggere due libri più, le foto posate, la copertina, sto bonazzo che gli gira intorno, aria da marchetta, no, francamente. Addirittura. Se aveva questo tormento dentro, il tormento gli esplose improvvisamente durante il sinodo. Cosa è un brufolo? Ma tu dici, fa parte di questo grande complotto contro il Papa? Ma va là, che grande complotto contro il Papa! Questo Papa è molto più reazionario del precedente, intanto, non c'è nessun complotto. Addirittura. Beh, insomma, sì. Più reazionario, tutti dicono che è progressista, cioè, tu dici che è reazionario. Io dico che un Papa che aveva pronte le foto seduto in metropolitana, presa come un comune cittadino a Buenos Aires il giorno in cui è stato eletto Papa, è frutto di una fantastica operazione di ripulitura che la Chiesa ha fatto intorno al suo principale esponente e che Ratzinger ha avuto atteggiamenti molto più interessanti da ristudiare, come ha fatto durante un famoso discorso. Disse che il profilattico non aveva usato. Perché dici reazionario? Ma pronunciò la parola profilattico. Fu il primo e unico Papa ad ammettere con la pronuncia della parola che il profilattico esiste. Capisci la sottigliezza? Sì, no, ma ho capito. Ma perché è reazionario secondo te questo Papa? Molto più reazionario. Perché stanno cercando nuova clientela, nuovi fedeli, la Chiesa. Però alla fine non cambia niente, tu dici. Però alla fine non cambia assolutamente niente. Il fatto che ci siano meno le lobby, ci sono state anche reazioni francamente discutibili su altri punti di vista, in Vaticano non credo che sia una novità, come non è una novità sesso e potere, in questo caso ecclesiale. Ma tu sei mai stato con un prete? Ma per quale motivo? Ma che ne so, non magari mi piacciono le gonne lunghe, non mi sono mai piaciuti gli abiti talari. Ma che ne so, magari ti è successo di andare con un prete? No, mai senza pericolo. Guarda, c'è un libro bellissimo, una storia della letteratura italiana, che è Il prete bello, di Goffredo Parise, sì, che descrive molto prima di Richard Chamberlain e di Uccelli di Rovo questo tipo di atteggiamento. Ma io non ho mai subito il fascino di un prete. No. Va bene, ciao Mauro, baci, a presto, ciao baci, ciao. Allora andiamo a Pordenone, Maurizio, vai. Ciao Giuseppe, volevo dibattere un po' con Parenzo qui. Dimmi, vai. Non sono d'accordo con le cazzate che dice oggi. Vai. Perché lui, non lo so, se per caso vanno a casa sua, cosa gli fa il caffettino quando hanno finito di stuprargli la moglie, gli dà la sigarettina, non so, che come si comporta lui. Non so. Reazione è quella di difendere me e la mia famiglia, c'è una pistola, giustamente sparo. Ma sì, dai, è così. Non me ne frega un cazzissimo di niente. Ma è così che ragionano la maggior parte degli italiani, ma è normale che sia così. Uno deve avere, se ha il coraggio, se ha il porto d'armi, se si sente in grado, si compra una bella pistola, si mette in casa e poi non ti devono rompere i coglioni. Che tu spari dalla finestra, che tu spari dal cortile, se uno tenta di entrare, se uno è già dentro, sono tutti dettagli interessanti, sì, i processi si fanno. Però alla fine uno dice, senti, ti sei difeso, sei incensurato, c'è una persona a posto, hai pagato le tasse, sei regolare, sei una persona normale che... Una pistola regolare, bisogna essere incensurati. Ma no, ma per dire, cioè, questo qua è uno che si è difeso, adesso gli stanno giustamente rompendo i coglioni, lui reagisce, giustamente reagisce, semplicemente perché forse ha sparato da lì, quello non è entrato in casa, e cioè, sì, non sarà entrato in casa, tanto sarebbe entrato in casa, quello mi pare chiaro. Ma dico, con la torcia a far cosa? Dai, scusa. Maurizio, ma... che vuoi dire a Parenzo? Niente, che forse lì dov'è... Il cervello non prende, no. Non so, che si sposti di qualche metro. No, mi arrendo, perché forse mi spiego male io, evidentemente. Cioè, ma sì, no, forse... capito il tuo discorso, Parenzo. No, io però penso che... in quel momento lì non c'è neanche il tempo di pensare. No, infatti, io guarda, mi arrendo perché penso che chi vuole ha capito. Cioè, buona parte delle persone che ascoltano e non chiamano hanno capito, credo. Perché così mi risulta quando è in giro. Sì. Per quello che il telefono qua è vuoto, il centralino è vuoto. I miei soliti, no, lui dirà i miei soliti amici, gli intellettuali, i professori, i grandi statisti, i ministri e i manager. Ecco, quelli, ma non solo ovviamente. È il filo di prima, quello che ha telefonato prima. E qui io ovviamente sto scherzando, che si chiama ironia questa, che però anche questa non viene capita, ma non importa. Io non ho mai difeso il criminale, cioè quello che entra in casa. Nessuno l'ha sostenuto. E allora qual è il problema? Il problema non c'è, rispondi all'ascoltatore, basta, non c'è nessun problema. L'ascoltatore forse non ha capito, perché un po' di confusione la state facendo tutti voi, una parte della politica, e tu anche, facendo credere che la persona che ha sparato in realtà non è tutelata dalla legge e non poteva chi sparare. L'ha detto? Stai facendo credere una cosa che non è vera. Io non ho detto questo. Io continuo a ripeterlo da quando c'è questo caso. La legittima difesa nel nostro paese c'è. Ma no, ma che strano, non lo sapevamo. Lei, Maurizio, lo sai tu che c'è la legittima difesa? Lo sai che c'è, sì, la legittima difesa, sì. Uno deve essere demente per non saperlo. No, no, ma è così, bene. Allora vi chiedo. Cioè, per Parenzo va bene così, è tutto a posto, è tutto regolare. Va bene che cos'è che sta Cioè, non succede male. Niente, non c'è un caso, no. Qual è il caso? Non c'è nessun caso, no, ma infatti, ma questa è una tesi tua, cioè non esiste nessun caso, è un piccolo caso di cronaca che va bene, questo subirà un processo, poi sicuramente vediamo se per te è tutto normale. Non è neanche detto che lo subirà. Adesso, ad esempio, stanno, come tu hai ricordato un po' velocemente all'inizio, emergendo dei nuovi particolari su questa vicenda che dimostrano, ad esempio, che non sono quei famosi scoccianti dettagli quali noiosi. Quali sono questi particolari? Dimmi. Questi dettagli noiosi. Dimmi, quali sono i particolari? Perché siccome la legittima difesa tu la puoi praticare sia nei confronti delle persone sia nei confronti delle cose in Italia, per cui se qualcuno aggredisce la tua casa allora? Ti puoi difendere. Sì, nessuno dice il contrario, dunque? Benissimo. Ora, però, siccome qui c'è un morto, la magistratura deve semplicemente accertare le dinamiche di questa cosa. Ma questo qua lo sappiamo tutti. Stai dicendo delle cose ovvie, lo sappiamo tutti allora, che è così. Dicendo delle cose ovvie. Allora io vorrei che tu rispondessi alla rabbia di rabbia di quel signore lì. La che rabbia di questo signore è determinata dal fatto che siccome legge e sente dai giornali... Ah, per cui è tutto il signore che ha sparato e che è incazzato come una biscia, perché dice che i ladri dovrebbero avere 25 anni... Dimmi. Il signore sotto shock per quello che ha fatto, perché immagino che a differenza Io ti devo chiedere una cosa. Quando Librandi prima ha detto che è un irresponsabile ad aver sparato, sei d'accordo con lui, sì o no? Questo è il punto. Prendi una cazzo di posizione. Sei d'accordo o no? Non prendi posizione. Bene, pubblicità. Ma sai pubblicità. Perché? Va bene, non la perché prendi. Pubblicità, via. Ma vai, pubblicità, via. Pubblicità, va bene. Pubblicità non è nessuno, niente da dire. Pubblicità, via, dai. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Cosa ha detto Renzi? pensi sulla vicenda di Sicignano, che trasformare Sicignano in un eroe è un errore, ma è una banalità assoluta, nessuno lo vuole trasformare in un eroe, solo io che faccio il conduttore radiofonico lo vorrei presidente della Repubblica, però non è un eroe, è uno che semplicemente ha reagito giustamente a un pericolo incombente nei confronti della sua famiglia e dei suoi cari, dunque va prosciolto in pochi giorni a mio parere, dopo gli accertamenti, certo, ma in pochi giorni con una celerità anche abbastanza, come dire, che di solito non abbiamo, ecco, questo è il mio suggerimento qui dai microfoni della Zanzara. Comunque Renzi, quando parlano i magistrati devono tacere i politici. L'idea di trasformare questo nostro concittadino in un eroe penso che sia un errore innanzitutto per la persona e per naturalmente le dinamiche che ancora non sono chiare. Allora, caro Parenzo, esce in questi giorni, ma questo ha ragione però lui, scusami. Perché... Sì, vabbè, ma è chiaro che nessuno vuole trasformare in un eroe. Le banalità sono banalità. Ma è una banalità assoluta ma questa però, roba qui. Scusami, perché uno deve dire sempre per forza la castronata? Ma non è perfetto, non è che c'è la banalità o la castronata, dire, non c'è o la banalità o la castronata. Tu fai il conduttore radiofonico e quindi puoi dire anche una cosa provocatoria come sempre fai e va bene. Renzi ha detto, è il pericolo di trasformare questi in un eroe, vabbè lo sappiamo, sì, ma lo sappiamo. Ma no! Non è che può dire per forza facciamolo presidente, cioè capisci? Ma non ho capito, ma c'è un'alternativa, potrebbe dire per esempio vogliamo modificare questa legge di qui, vogliamo modificare questa legge di qui, la legittima difesa, non lo so, magari non ha niente in testa. Ma modificarla come? Non lo so, magari ha in testa qualche cosa, magari dice no, non c'è bisogno di cambiare le leggi, magari dice questo. Ma ha detto una cosa talmente di buon senso da risultare banale. Vabbè, cioè, appunto. E purtroppo è così. Però in questi giorni... Sodomizziamolo in piazza. No, ma non, l'alternativa non è dire una banalità... Bellissimo. Vabbè, d'accordo. Sì, mi pare. Va bene, insomma, d'accordo, no. va bene. È banale, però. Va bene. È normale, no? Allora, esce in questi giorni, perché poi con Parenzo bisogna faticare per andare avanti, esce in questi giorni un libro, ma direi che esce in un momento incredibilmente... No, c'è una coincidenza pazzesca, non so, forse ha organizzato lui questo scoop o bufala sul Papa, non lo so. Via Crucis di Gianluigi Nuzzi per Chiare Lettere. Gianluigi è in collegamento da Monaco di Baviera. Ciao Gianluigi. Buonasera a tutti voi, ciao. Ciao. Ma cosa fa a Monaco? Beh, in giro per il suo libro, che sta a fare Gianluigi? Beh, sarà un'uscita internazionale, uscirà in 23 diversi paesi, quindi insomma è un libro importante perché cioè stai facendo promozione al tuo libro. 23 paesi, un best seller internazionale. Beh, ragazzi, noi scherziamo, ma è vero, non è che lo diciamo così per prendere in giro. Esce in 23 paesi, ha scritto già. Dimmi. E nulla a che vedere con questa bufala pesante di metteva dubbi sulla salute del Papa. Ma per te è una bufala? Perché è una bufala secondo te? Scusami. Ma perché hanno tutti smentito, perché il Papa sta bene, il Papa è un leone, dire che ha un tumore benigno al cervello è una sapiente, ma non parlo dei colleghi che hanno ricevuto questa notizia, parlo di chi Marie. Ma di chi l'ha distillata questa cosa per renderla talmente credibile a un direttore attrezzato come è il direttore del quotidiano nazionale. Evidentemente dire. Ma è una polpetta velenata. Ma è assolutamente, ma è per un semplice motivo, perché dire che ha un tumore benigno, seppur benigno il cervello, è l'anticamera per dire che il nostro grande Papa Francesco si riforma, si cambiamenti che vuole, perché non ci sta con la testa. La pazzia purtroppo è un ticket medievale che viene ancora utilizzato in Vaticano. Gotti tedeschi gli hanno fatto, l'ex presidente dell'OR, gli hanno fatto una perizia psichiatrica a distanza prima di defenestrarlo ingiustamente, trattato come un ladro, che ladro non era, e quindi questi sono i metodi. Cioè tu dici c'è chi vuole far passare il Papa come un matto. Sì, ma dato che io avevo, quando ho iniziato a lavorare su questo libro si vedevano i primi sintomi di questa crescita di nemici del Papa che avrebbero usato ogni mezzo, sono andato a scavare e ho tirato fuori delle storie che, credimi, lasciano senza parole. Cioè sulla guerra che è in corso tra bergogliani e anti-bergogliani. Sì. Per esempio dici un metodo che vogliono usare o hanno già usato contro questo Papa per screditarlo. Beh, questo è quello l'hai visto in questi giorni, è il metodo di legittimazione. sì, quello che ha scoperto all'interno Papa Bergoglio, io lo racconto nel libro, come hanno cercato di fermarlo, stanno cercando di fermarlo, perché poi noi conosciamo una storia su 10, ma le altre 9 fanno paura uguale. E perché si gioca, credo che si stia giocando il destino di questo pontificato, sì, e la crescita degli attacchi nei suoi confronti è un segno esplicito di come questo Papa dà fastidio, perché ha messo la povertà al centro del suo pontificato, capito? Dunque, e contro quindi, di lui chi ci sono? I ricchi, cioè quelli che si sono arricchiti prima? Cioè i... Quelli che hanno gli orticelli, gli orti, e non solo gli orti e gli orticelli, ma in questo caso degli autentici latifondi, cioè che di potere, che è... di potere. Allora, però io voglio chiederti una cosa, Gianluigi, secondo te, adesso tu hai detto quelli del giorno, del quotidiano nazionale, sono stati solo il terminale di un progetto più ampio, però cioè, non puoi essere, non possiamo essere solo no, possiamo fare difesa di casta qui, No, non faccio difesa di casa, ma finché non ho una prova di una loro... Allora come fai tu a dire che è una bufala? Come fai a dire che è una bufala? Perché hanno c'è stata una smentita concentrica, ci sono state delle smentite su delle verità fattuali, cioè non esiste un elicottero con le bandierine del Vaticano, perché questo famoso elicottero che si sarebbe alzato da Pisa per andare a portare il dottor sì, giapponese Chikichaki, non so come si chiami, Fuguyama, Roma, sì, là. Ecco, con le bandierine del Vaticano, il Vaticano non ha un elicottero di questo tipo, e quindi non è possibile che sia un elicottero. Beh, però noi non ci fermiamo alle smentite perché... ufficiali di solito, dai, cioè non è quello il punto. No, non ci smentiamo, ma però ci sono anche dei dati fattuali, perché se lui avesse avuto quel tipo di problema non avrebbe fatto dei viaggi in Sud America a 4.000 metri d'altezza, perché solo un pazzo le avrebbe fatte. Cioè tu, secondo le informazioni che tu hai, il Papa sicuramente non ha un tumore al cervello. Ma c'è... guarda, no, e ti dico, e questo si incasella con la fuoriuscita di Caramsa, che diceva giustamente, che raccontava di avere un fidanzato omosessuale, e di avere un fidanzato essendo omosessuale. Ma anche quella è una manovra, anche quella è una manovra contro il Papa? Beh, durante il sinodo, che si deve discutere della famiglia, penso che sia una bomba nucleare all'interno del sinodo, poi è stata disinnescata, perché sì, per fortuna, come dire, ci sono anche dei sistemi reattivi rispetto a certe cose. Senti, ma il Papa rischia la vita secondo te? Cioè c'è qualcuno che lo vuole far fuori? No, secondo me non rischia la vita il Papa, non rischia la vita fisica. Sì. Io ho fatto un tweet dove dico che questo Papa ricorda molto, almeno a me, ricorda molto Papa Luciani. Sì. Come è finito Papa Luciani dopo 33 giorni di pontificato lo sappiamo tutti. Questo Papa non rischia l'eliminazione fisica, rischia di essere una delegittimazione, perché tanto è amato da tutti, e parlo di cattolici e non cattolici, cioè il popolo lo ama, no, questo Papa, più o meno, riempie Piazza San Pietro, beh, abbastanza, insomma, sì. Non è che rispetto a... Cioè, però quando tu dici che potrebbe finire come Papa Luciani, però insomma lo sai che Papa Luciani è morto, e molti dicono addirittura c'è tutta una teoria sull'avvelenamento di Papa Luciani, no? Cioè, assolutamente, ma io ho aggiunto, può finire come Papa Luciani. Papa Luciani è finito in un modo, sono cambiati i tempi. Oggi non ti uccidono fisicamente, ti delegittimano. Cioè questo modo di farlo passare per matto è uno dei modi per delegittimarlo. È l'anticamera, per dire che è strano. Io sento lì all'interno del Vaticano e molti sono sorpresi che lui porti i poveri nella basilica a vedere le bellezze degli affreschi e quant'altro, no? Ho capito perché. Grazie Gianluigi, grazie. Pubblicità. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is. No. Ritorna a parlare Herb Lopez Mattielli, condannato a 5 anni e 4 mesi a 135.000 euro di risarcimento nei confronti di due signori rom, tra parentesi, che erano entrati nel suo magazzino. Lui prese la pistola, il fucile, quello che è, sparò, questi rimasero feriti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo 10 anni fa. Dopo 10 anni, 5 anni e 4 mesi, 135.000 euro di risarcimento, Mattielli. E se la portano in galera? Non me ne frega un cazzo! Perché? Perché non me ne frega un cazzo! Io non sono mai andato a rubare in casa degli altri! Un poliziotto, o un ex poliziotto, non so, intervistato da Quinta Colonna. Mi è successo durante un intervento in servizio, ho dovuto estrarre l'arma con una persona in flagranza di reato, mi veniva incontro con un cacciavite, poi si è fermato, si è girato dicendomi tanto non puoi spararmi, se n'è andato, alla fine c'è stata una colluttazione con questa persona e per quella colluttazione mi sono anche dovuto giustificare. Oltretutto in seguito ho scoperto questa persona essere sieropositiva e tubercolotica. Voci, quelle che venivano chiamate una volta Vox Populi, da Bergamo, questa volta sulla questione dei ladri, eccetera, eccetera. Questa è molto forte, attenzione, forte nel senso hard. Proviamo a entrare in casa loro, proviamo a stuprare una loro moglie, proviamo a fare qualcosa che normalmente succede a noi. Io sono sicuro che da oggi a domani il tutto si mette a posto. Questa è una merita stronzata, quella che dice questo signore intervistato per strada, non so dove, a Bergamo. Cosa significa proviamo a entrare a casa loro? A parte casa loro di chi? Cioè dei ladri, non è che i ladri hanno una casa fisica, cioè non è che c'è scritto fuori ladri, no, in alto, ladri. Ma è morto Parenzo, che ha fatto? Non ho capito. Anche qui ogni giorno però, è uguale. Come? Non ho capito. No, lo dicono anche qui ogni giorno. Cosa? A casa vostra, entriamo a casa vostra, è la stessa cosa, è uguale. No, ma questa è una puttanata, non è che andare lì e fare qualcosa contro, no, i ladri, oh, è impossibile, perché non è che ci, no, sono... No, ma anche quel poliziotto che giustamente hai fatto sentire, che avevo sentito anch'io lunedì, e che se uno lo ascolta una volta dice, oh, beh, però poveretto. Ma in realtà uno giustamente poi non gli hanno fatto nulla, ma hanno voluto sentirlo per capire come era, perché non è che anche il poliziotto può fare quello che gli pare, ma non l'hanno sanzionato. Infatti il poliziotto dice... mi sono dovuto giustificare, no? Non è che dice mi hanno penalizzato. Sì, diciamo che in Italia, fatto, rispetto ad altri paesi, l'atteggiamento della polizia in alcune situazioni viene scrutato poi di più, diciamo, no? Beh, ma meno male. Sì, non so se è meno male, non lo so, francamente non lo so. Viene. No, ma in questo caso qui poi ti ho detto una cosa vera, cioè ho detto mi sono dovuto giustificare. Beh, insomma, cioè, giustificarsi perché ha tirato fuori la pistola e l'ha puntata, mi sembra un po' troppo, adesso, francamente. No, per la colluttazione, diceva. Sì, non per la colluttazione, pistola. Sì, sì, c'è gente che viene denunciata, avrà, c'è gente, sì, che viene denunciata per la colluttazione. Prova, ricordo, no, ma certo, poveri, ma sicuramente, certo. No, ma è per dire, no, così, tanto per dare un'indicazione in più. Antonella da Milano, dai. Antonella, dimmi. Io ci sono. Sì, dimmi, dai. Allora, no, io volevo dire che sono d'accordo con chi definisce irresponsabile la persona che ha sparato. E parlo da mamma. Sì. Nel senso che io non terrei mai un'arma in casa. Prima di tutto perché... Sì, no, questa è una scelta... Questa è una scelta... No, ma usarla contro una persona, sì, è completamente diverso da usarla su un campo dove fai esercitazione. Questo prima di tutto. Ma questo qua è scontato? L'altra cosa invece che volevo chiederti... Stasera è difficile, dimmi. Perché sei particolarmente aggressivo. No, ma non sono aggressivo, io mi incazzo quando uno non prende posizione ed è vago, semplicemente. Okay, questo. No, punto. Io ti dico. Cioè, non voglio prendere posizione. Vabbè, d'accordo. Io prendo posizione, io le armi non. Sì, le... no, ma infatti tu hai detto, infatti, okay, mica ho detto niente. Ho detto, io non ho armi, ovviamente. No, adesso voglio fare. No, Antonella ha detto, ha ragione Librandi quando definisce irresponsabile il pensionato di Paprio Dadda. Bene, chiaro, molto semplice. Esatto. Ma come, però, benissimo. Fai parlare Antonella, dicendo una cosa, facciamola parlare, dai. Io lo definisco irresponsabile perché se lui non avesse avuto l'arma in casa non avrebbe sparato, probabilmente gli avrebbe lanciato qualcosa, avrebbe fatto qualcos'altro, ma molto probabilmente la persona non sarebbe morta e no, avremmo un morto. Vabbè, meno, quello però è ladro, sì, definiamolo ladro, va bene. No, ma non è, ma io non sono contento se muore io un ladro, se muore non è che sono necessariamente contento. Okay. Cioè, l'ideale è che non muoia nessuno sempre, quello è scontato, no? Ma soprattutto non avrebbe problemi lui. Ma ho capito, adesso, ma non è una, comunque, dire anche questa roba qui, come ha detto Librandi, è una stronzata. Va bene. Ma che significa? Quello ha un'arma in casa, altrimenti se c'hai l'arma, in qualche modo sei spinto a usarla. Quello dice che da 7 anni ce l'ha sul comodino quest'arma, no? Cioè ha subito la rapina. Evidentemente era talmente esasperato, almeno così si evince anche dal tipo di dichiarazioni che fa, no? È talmente esasperato dalle rapine, eccetera, che a un certo punto ha sentito un rumore, in casa c'ha i nipoti sotto, eccetera, eccetera, è uscito fuori. Diciamo, diamo retta alla versione forse della procura e dell'accusa, cioè del pubblico ministero che sta facendo le indagini. Cioè, ha visto questo qua che armeggiava per entrare e ha sparato perché si è messo paura, eccetera. E allora? E il punto qual è? Non riesco a capire io qual è il punto. Cioè, capisci trovo tutto folle. È il tuo punto che non è chiaro, sinceramente. Il mio punto è che questo qua dovrebbe essere prosciolto in pochi giorni. Questo è il punto. Perché ha sparato nel perimetro di casa sua e dovrebbe essere prosciolto in pochi giorni. Ho capito, invece, questo non avverrà. Ascolta, questo non avverrà, purtroppo. Ho capito, ma non è territorio extra italiano. Vabbè, ma io infatti non è che dico in casa sua non valgono le leggi. Io non sto dicendo, anche in casa sua. Infatti si sono aperte le indagini, però a me pare abbastanza chiaro che, ripeto, questo qua, ammettiamo anche che non abbia sparato dentro casa, che abbia sparato fuori, allora io ripeto, continuo a dire, e dunque forse c'è da correggere qualche legge su questo punto, anche allora, se tu... Ecco, allora veniamo al secondo punto, è questo che volevo chiederti. Io sono convinta che invece di cambiare quella legge, perché quella legge poi alla fine riguarderà non so quanti numeri, diciamo, come coinvolgimento di persone, io cambierei invece la legge, quella che diciamo incrimina quelli che ammazzano le altre persone in macchina. Quella sì la cambierei, perché lì... Vabbè, quello sì, certo. Da drogato da uno sotto l'alcol, come dicono, quello è omicidio. Quello sì è omicidio e non è omicidio colposo. Benissimo, Antonella, perché ciao. Ma ho capito benissimo. Gennaro, certo. Caserta, vai, Gennaro. Ciao, Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, senti una cosa. Io ti avevo chiamato per un altro motivo, però adesso... Voglio spendere una... No, dimmi quello per cui mi avevi chiamato, dai. Oppure di quello che ti pare, di quello che ti pare, dai. Giustamente perché tu hai fatto l'accordo, hai parlato prima nel tuo passaggio di aver fatto un accordino per quanto riguarda il canone Rai, no? No, mi volevo rassicurare, no? Ma non è che lì ti stanno cacciando a calci in culo dalla Confindustria? Ma che c'entra? Stai aprendo un buco alla Rai? Ma non dire stronzate, dai, su. Ah, come c'entra? Perché dopo io sono un camionista, come faccio a stare 2 ore sempre due stronzate? Mi sto preoccupando. No, non ti preoccupare, non c'è questo pericolo. Un'altra cosa ti volevo dire, un'altra cosa. Adesso ne approfitto perché quando sarà il momento, metti casa, noi tempo fa hai parlato di quando riguardava l'imbalsamazione, no, degli animali e tutto quanto. Sì, allora... Tu ti sei sempre dichiarato un lover, un grande scopatore. Io non ho dichiarato nulla, amico mio. Lascia per quando morirai. Ti sei dichiarato un grande scopo. Ma di che stai parlando? Vabbè, allora. Dici che sei un poligamico, fai le donne. Ma io non ho fatto un poligamico, a parte si dice poligamo, ma comunque so. Poligamico, quello che sia. Vabbè, allora. Dico, perché quando succederà il momento che dovrai morire, perché prima o poi muori. Tutti moriamo. Abbassamare con il battaglio in tiro, no? Così poi ti mettiamo su una piazza dove ci sono state quelle famose rivoluzioni femministe con una targa sotto. Sì. L'uomo che ha fatto piacere alle donne. Gennaro, apprezzo molto questo intervento, ma non succederà, non accadrà questo, non mi faccio imbalsamare nudo, non mi faccio imbalsamare nudo, ciao. Oh, mi sembra che abbia chiamato Diego da Udine, che credo di capire chi sia, caro Parenzo, Diego, dimmi. Ah, eccolo, è lui. Diego Volpe Pasini, mitologico, dimmi Diego. Sì, ma poi da Roma in realtà, perché vivo a Roma adesso, ma Parenzo, se fossi lì gli darei 2 sberle, perché nonostante sia anche un po' più piccolino e sia pericoloso dargli 2 sberle perché si fa del male, è veramente, fa prudere le mani, io sono un calmissimo, hai già un uomo normale. Partito? Hai già aperto un nuovo partito, depositato il marchio? No, lasciato per i marchi, deposito cose aziendali. L'ho lasciato perdere, perché quella roba la lascio a te, che vai a cena con i deputati, i ministri. No, perché tu sei esperto di fare liste. Tutti perdi tempo. Sì, no, quello era il mio gioco. Vabbè, ragazzi, però chi se ne frega adesso dei ricordi? Ma quello non c'entra un cazzo. Perché vuoi dare due schiaffi a Parenzo? Perché quando parla degli altri, dando dei giudizi sferzanti su come sono, come non sono, come bisognerebbe comportarsi. Questo mi si chiede. Lui vive nella bambagia, no? Fin da piccolino, e anche adesso vive in un bellissimo appartamento, iperprotetto, da parte di un mondo assolutamente tutelato, per cui non può neanche immaginare che cosa può provare una persona che si trova di fronte a un ladro. E tra l'altro ricordiamoci che questo paese è stato invaso negli ultimi anni da persone che arrivano da paesi dove la vita umana non ha più nessun valore. Non sono ladri italiani. Posso dire una cosa? Parenzo, potresti spostare la bocca qua dal telefono? Sì, quando no, ma siccome l'hai fatto 10 volte durante la puntata, per i germi, cioè la gente si è, no, ma la gente che ascolta si è anche un po' rotta i coglioni di sentire uno tossire. Va bene una volta per la realtà, no, la radio verità, va bene anche tossire, però dopo un po' ci rompe il cazzo. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Dai, non vorrei attaccare i germi. No, ma non attacchi a nessuno, perché Bietri non si attacca a nessuno, non ti preoccupare. Quindi il punto è che ci sono delle situazioni, delle persone, la maggior parte delle famiglie italiane, che vivono in condizioni di rischio pesante. Vabbè, questo lo sappiamo, se non ci fa la lezione. Diego, qual è il punto? Che cosa che ti ha fatto incazzare? Ma quando si trovano di fronte qualcuno che gli entra in casa con la minaccia di non solo rubare, ma di fargli del male, chi lo mette in discussione? Devono reagire, punto. Devono sparare se hanno un'arma, devono difendersi con la mazza da baseball. In qualunque modo, perché la magistratura italiana e il sistema giudiziario italiano non fa niente contro questa gente. Un ladro, anche un ladro violento, viene rilasciato 3 giorni dopo. Non, in questo paese, l'unico paese dove esiste il reato di eccesso di legittima difesa, questo eccesso di legittima difesa va tolto. Sì, io sono d'accordo, va tolto. Tu entri a casa mia, violi la mia casa, io su di te faccio quello che voglio. Sei tu che non devi entrare a casa mia, non io che non posso difendere. Sono d'accordo. Non esiste l'eccesso di legittima difesa. A casa, certo. C'è la difesa, punto. E un giorno deve durare l'indagine, un giorno. A casa, nei negozi, eccetera. A lavoro, in azienda, vengono a rubare il rame tutti. E ci fanno danni pazzeschi anche l'altro giorno. Non è possibile, un vigilante armato non può fare niente. Abbiamo i vigilanti armati che girano dappertutto per proteggere le fabbriche e le aziende. Sì, non possono fare un cazzo, è vero. Non possono fare niente. Invece chi entra nella mia proprietà, io e i miei uomini, gli dobbiamo sparare, gli possiamo sparare. Ed è giusto farlo, perché sono loro i ladri, non siamo noi. No, questo no. Ciao Diego, Carmine, Torino, Carmine, vai. Dimmi, Carmine, dimmi. Ciao Giuseppe. Allora, volevo soltanto portare la mia testimonianza a difesa del signore di Sicignano, signor Sicignano di Vapio Radda, perché io, come forse tanta altra gente, ho trovato i ladri in casa. Sì. Mi sono trovato faccia a faccia con i ladri. Ho cercato di rincorrerli, mi hanno svaligiato la casa e ho cercato di rincorrere, mi sono fatto male la mano. Mi sono trovato poi di fronte a un ladro con una pistola che mi stava anche sparando. Mi sono rifugiato in casa. Quello che ho trovato in casa, da quando sono stati via loro, poi per mesi, io, mia moglie e mio figlio, abbiamo sofferto di una situazione psicologica non indifferente, siamo stati male, perché ogni qualvolta giravamo per casa, c'era sempre il timore, mi immaginavo qualcuno che rovistava nel comune. Dunque tu capisci quel signore che ha sparato, anche se magari il ladro non era in casa, lo capisci? Ma certo che lo capisco, io avrei fatto altrettanto, perché in Italia purtroppo non c'è la certezza della pena. Quando i poliziotti che fanno un lavoro duro prendono questi ragazzi che vanno in giro a rubare, devono metterli in carcere 20 anni, 25, 30. Tu vedi che la prossima volta. Ora, però, la proposta che ha fatto oggi Sicignano: 25 anni, 25 anni per i ladri. Sì, sì, vabbè, d'accordo, per carità. Ma io non so quanto possa, però, in realtà. Disincentivare un ladro nell'andare in una casa a rubare, non lo so, certo, se diamo 25 anni per uno che tenta un furto, allora dobbiamo fare, che ne so, 3 ergastoli per chi ammazza una persona, cioè bisogna poi alzare tutte le pene, attenzione, esatto. Cioè, esatto. Ma pure bene, magari può servire, esatto, però questo esatto. È, cioè, se tu dai 25 anni per un furto, bravo, per un furto in un appartamento, poi devi darne 70 per altre cose, devi darne, esatto, 120 per altre cose, eccetera. Allora chi fa una bancarotta fraudolenta e mette sulla strada tante persone, quanto gli devi devi dare, non 25, gliene devi dare 70, perché quello là è colpevole della rovina di tante persone. Ma va anche bene questa roba qua, in America funziona così, c'è gente che prende 70 anni, 80 anni, 100 anni, a domani, dai, ciao. Senza controllo sanitario. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.